Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Attenzione, che qui fra poco si vorrà dimostrare che, prove alla mano, il maschilismo è scientificamente testabile, sperimentalmente insomma, tese di grande forza dunque, ma che si sgretola, si frantuma, se parliamo di affermazioni con grande impatto, con un'altra tesi, e cioè i giapponesi sono stati cattivi e quindi giustamente il terremoto li ha puniti. Questo vi proporrà Mebius nella puntata della quale ora ascolterete i titoli. Le donne? In cucina. La tendenza al maschilismo è ora provata scientificamente. Il vicepresidente del CNR individua le cause profonde del terremoto in Giappone. I giapponesi devono aver fatto delle cose brutte e Dio li ha puniti. Dalle scuole elementari alle aziende, passando per l'università. Un nuovo piano nazionale vuole creare una grande comunità dedita alla robotica. Tante malattie e mille modi per guarirle. È l'etnomedicina, la scienza che studia come da 10.000 anni ci stiamo curando. Niente bruchi dallo spazio. Dopo 3 settimane una valanga di dubbi sommerge l'annuncio di un esperto della NASA. Scusa Chiara Albicocco, ciao. Ciao Federico, buonasera. Però il primo titolo è Le donne in cucina. Eh sì, me lo merito. Tu qui a Mebius un sacco di volte parli di cucina scientifica, ti sei messa tu nel tunnel. È il mio compito, sono stata scelta per questo. Infatti è stato dimostrato scientificamente che le donne devono stare in cucina, lavare, stirare, insomma... Diciamo più che altro, ribaltiamolo, che è stato dimostrato in qualche modo il maschilismo dei maschietti. Scientificamente, perché noi qui parliamo solo di scienza e per parlare di questo ovviamente abbiamo bisogno della coordinatrice di questa ricerca che viene dall'Università Milano Bicocca ed è la dottoressa Zaira Cattaneo. Buonasera dottoressa. Buonasera. E lei è appunto ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca. Ecco, allora io partirei da un dato. Allora, abbiamo detto, è stato dimostrato il maschilismo scientificamente, l'abbiamo detto anche scherzando, però forse dobbiamo prima di tutto spiegare agli ascoltatori che cosa avete fatto in laboratorio, il famoso teatro dell'esperimento, e poi capire come siete giunti a queste conclusioni che insomma abbastanza preoccupanti. Allora, l'obiettivo, diciamo, della nostra ricerca era quello di indagare le basi neurali del maschilismo. Già altre ricerche hanno dimostrato in passato che negli uomini vi è un po' questa tendenza ad associare appunto al femminile nozioni quali debolezza, la passività, la subordinazione, e al maschile invece nozioni legati alla forza, quindi il potere, il successo, il prestigio e l'autorità. Ecco, noi abbiamo utilizzato un test creato apposta per misurare le credenze implicite che le persone hanno riguardo ad esempio alle categorie, in questo caso era il genere, ma poteva anche essere l'etnia, la razza o la religione, e abbiamo visto come nei partecipanti maschi al nostro esperimento vi fosse proprio questa tendenza, ripeto, implicita, ovvero spesso non consapevole, ad associare al sesso maschile appunto nozioni di forza e al sesso femminile nozioni di debolezza, mentre questa associazione implicita non era presente nei nostri partecipanti donne. Ecco, in pratica avete preso un gruppo di uomini, un gruppo di donne, e che cosa gli avete fatto fare? Ecco, allora, il test usato non è ovviamente un test in cui ai soggetti vengono poste domande esplicite, quindi non è che ai nostri partecipanti venisse chiesto cosa pensi che le donne debbano stare in cucina o che l'uomo sia di diritto più autorevole della donna. Era troppo facile così. E sarebbe stato troppo semplice, esatto, anche perché è molto semplice poi mentire. E, no, invece abbiamo utilizzato un test ovviamente più sofisticato che è studiato appositamente per testare le credenze implicite, cioè quelle credenze di cui spesso gli individui non sono consapevoli. In cosa consiste questo test? Semplicemente nell'associare dei concetti una connotazione, diciamo, più maschile o più femminile. Quindi in determinate prove i soggetti si trovano a dover rispondere con lo stesso tasto a ha delle parole che evocano concetti di forza come potere, autorità, prestigio, e usare lo stesso tasto appunto per classificare anche dei nomi come maschili. E in altre prove invece devono classificare appunto con lo stesso tasto dei nomi maschili e delle parole che invece hanno a che fare con il dominio della debolezza, quindi passività, subordinazione, eccetera. La stessa cosa per i nomi femminili. Che cosa succede? Succede che i nostri partecipanti maschi, appunto, hanno mostrato di commettere molti più errori laddove dovevano utilizzare, diciamo, una stessa risposta per parole che evocavano concetti di forza e nomi femminili, e per parole che evocavano concetti di debolezza e nomi maschili. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui le risposte che devono fornire sono in contrasto con lo stereotipo maschio uguale forza, i nostri partecipanti maschi commettono molto più errori. Questo non si è osservato nei partecipanti donne. Perché, se non sbaglio, il test anche utilizza, come dire, misura anche una certa agilità, rapidità nella risposta, e quindi voi potete dire che se c'è più efficienza nel rispondere in una certa direzione, vuol dire che sotto c'è una immediata convinzione, diciamo, in quello che si fa. È un po' così anche. Esattamente. Sono più veloce e più accurato nel rispondere quando quello che devo rispondere riflette la mia credenza implicita. Ecco, Catano, lei per adesso dovrebbe raccontarci di una seconda parte, diciamo, della ricerca, che è quella nella quale avete utilizzato una tecnica, la stimolazione magnetica transcranica, che è molto efficace. Ma riesce a dirci un poco che cos'è? Sì, allora entriamo appunto nel merito della ricerca, perché il nostro obiettivo era proprio quello di indagare un po' le basi neurali degli stereotipi e di come vengono generalmente controllati questi stereotipi. E per raggiungere questo obiettivo ci siamo avvalsi appunto della TMS, stimolazione magnetica transcranica, che è una tecnica che sostanzialmente consiste nel erogare un campo magnetico che va ad interferire con l'attività dei neuroni della regione che viene stimolata. Si tratta ovviamente di un'interferenza assolutamente innocua e assolutamente... Sì, sì, l'ho provata anch'io, non succede sì, niente. Sì, sì, sì. Ottimo, è assolutamente appunto reversibile, dagli effetti totalmente reversibili. E cosa succede? Che grazie alla TMS è possibile in qualche modo, per così dire, inibire l'attività dell'area sottostante. Quindi noi cosa abbiamo fatto? In un gruppo dei nostri soggetti, durante l'esecuzione del compito che abbiamo descritto prima, li abbiamo stimolati appunto con la TMS su alcune regioni, in particolare alcune regioni della corteccia prefrontale, la corteccia dorsolaterale, la corteccia dorsomediale, e poi su un sito di controllo che si usa spesso, il Vertex. E che cosa si è osservato? Che quando nei soggetti maschi venivano stimolate le regioni prefrontali, sostanzialmente questi soggetti tendevano ad avere un'associazione ancora più forte fra parole associate alla forza e nomi maschili, e parole associate alla debolezza e nomi femminili. E cosa significa? Cosa significa questo? Significa che generalmente le aree prefrontali hanno il compito di tenere sotto controllo le risposte più irrazionali, quelle più emotive, quelle che vengono in qualche modo elaborate dai sistemi sottocorticali, che sono i sistemi più primitivi del nostro cervello, mentre le aree prefrontali sono le ultime ad essersi sviluppate nel corso dell'evoluzione, e sono quelle aree che più ci differenziano da tutti gli altri animali e dai primati. Solo l'uomo ha le aree prefrontali così sviluppate. Non è un caso che le aree prefrontali medino i processi cognitivi più alti, quali che ne so, le capacità di ragionamento, le capacità di astrazione, la pianificazione, la capacità di coordinare più compiti nello stesso tempo. E quindi inibendo quella zona, che cosa è successo? Cioè, inibendo quella zona si è osservato che i maschi commettevano più errori laddove era loro richiesto di associare con uno stesso tasto di risposta nomi femminili a concetti di forza e nomi maschili a concetti di debolezza. È come se, tolto il controllo delle aree prefrontali, diventasse per loro più difficile dire che un uomo è debole e una donna è forte. Ma perché alle stesse condizioni gli uomini hanno reagito così e le donne hanno reagito così? Si può dire a livello neurologico cosa è successo? Quello che in questo caso è successo è che, siccome nelle donne non vi erano delle associazioni implicite forti, tipo la donna non aveva l'associazione forza uguale donna, oppure associazione negativa per la donna, maschio uguale forza e donna uguale debolezza. Non avendo queste associazioni implicite forti, la corteccia prefrontale non aveva nulla da inibire, quindi togliendola temporaneamente di mezzo con la TMS non si osservava a livello comportamentale nessun cambiamento. Vorrei precisare, perché a onor del vero, che ciò non significa che le donne non abbiano in assoluto stereotipi, può darsi che ne abbiano, e anzi studi precedenti hanno dimostrato che per esempio le donne tendono ad avere uno stereotipo del tipo la donna è più portata all'altruismo, al prendersi cura degli altri, all'affettività, eccetera. Quindi se avessimo utilizzato magari un test che andava ad indagare questo stereotipo e non quello maschio uguale forza, donna uguale debolezza, magari avremmo trovato degli effetti simili anche nelle donne. Ecco, questo per dire che non è che le donne siano totalmente libere da stereotipi. Beh, però insomma, Cattaneo, abbiamo dimostrato ampiamente la superiorità. Quello che vi interessava. Bene, sono molto contenta. Per par condicio dovevo spendere qualche parola anche. Grazie Cattaneo, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Non v'è dubbio che nel futuro delle applicazioni tecnologiche, tutte quelle che deriveranno dalla robotica e che vedranno robotica in azione, bene, insomma, rappresentano un grande fronte di sviluppo. E quindi che un paese si interessi di poter sviluppare attività di ricerca sia di base che applicata in questa direzione è un compito fondamentale. Però certamente per ogni progetto che guardi soprattutto in avanti ci vuole una certa cultura diffusa, ci vuole una comunità che riconosca l'importanza appunto di questo scenario che deve guardare in avanti. C'è una fondazione in Italia, la Fondazione Mondo Digitale, che si occupa esattamente in questo momento di questa prospettiva. Qui questa sera è qui con me Alfonso Molina. Buonasera Molina. Buonasera. È cileno, docente di management all'Università di Edimburgo e direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale. Ed è di questa appunto fondazione che noi vogliamo parlarvi. Molina, si è appena concluso a Roma un paio di giornate, credo che siano state dedicate alla firma di un accordo che vede tantissimi attori possibili di una filiera che riguarda la robotica, sono tutti attori italiani, ci dica un po' cos'è stato. Sì, con la RONCAP 2011 organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, per la prima volta nell'Italia si sono riunite per lavorare insieme un gruppo di organizzazioni che vanno dalla scuola elementare alle aziende industriali della robotica, passando per le scuole medie, superiori e tecniche, e tutte le principali università e centri di ricerca che lavorano in questo campo. Questo è una cosa unica, però anche molto molto promettente, no? Sì. Gli ascoltatori si possono chiedere perché è successo questo, che c'entra la scuola elementare con le aziende di robotica, no? La risposta per così dire, nel ruolo trasversale che la robotica può giocare con tutti gli attori che si trovano nella strada o percorso che unisce la scuola alla industria. Sì. Per esempio, la robotica educativa facilita una didattica ludica, divertente, della scienza e tecnologia, ma anche delle altre materie, e questo è molto importante per la trasversalità. Questo aiuta, e questa è la parte strategica, a contrastare grandi problemi della scuola italiana. Per esempio l'alto grado di abbandono scolastico, che arriva quasi al 20% degli iscritti. Ovviamente c'è anche il problema di stimolare l'interesse per le materie scientifiche e tecnologiche, certo, che si sa che deve cominciare molto presto nella scuola primaria. E certamente ciò che succede alla scuola si trascina verso la università, dove c'è anche un altissimo tasso di abbandono, perché solo il 33% degli studenti porta a termine un corso di laurea. Certo, immagina. E c'è pure la bassa percentuale di laureati in materie scientifiche, che nel 2009 è arrivata solo al 2.8%. E così via si arriva all'industria, che ha bisogno di persone ovviamente con alte competenze tecniche e scientifiche, che devono essere formate dalla università, istituti tecnici specializzati, in un percorso che in questo caso noi vediamo che veramente comincia dalla scuola elementare. Però voi che cosa avete fatto? Perché appunto tutte queste varie caselle che possono fare delle cose in campo robotica, cioè anche in una scuola elementare si può insegnare ai ragazzi a incominciare, ai bambini e ai bambini a incominciare a lavorare appunto con i robot. Quello che voi però mi pare sosteniate è che c'è una bella differenza se tutti questi attori si muovono separatamente e invece appunto la differenza con il poterli mettere in rete e quindi scambiarsi continuamente delle esperienze, cercare di passare da un'area all'altra con continuità, quindi studiare i passaggi e la creazione di una comunità che rende il progetto molto più forte. Questa comunità si è riunito e dico che è stata una cosa molto eccitante perché tutti sono coscienti dell'importanza di questa risorsa di rete. Oggi viviamo nella società della conoscenza, la società della rete, no? Come diceva l'espagnolo Castel. Qui in questa discussione che noi stiamo parlando di creare una realtà, non solo diciamo un gruppo fisico, no? Stiamo parlando di creare tutta una realtà in rete, dove la impresa può contribuire con risorsa, no? Perché qui è molto importante l'uso della parola risorsa, perché normalmente quando si parla di risorsa si pensa in finanziamento. Invece noi abbiamo visto che, per esempio, nel fatto di creare la rete, le relazioni tra realtà che erano separati, già questa relazione diventa una risorsa, perché fa fluire, no? Un flusso di conoscenza, un flusso anche di motivazione, di non sentirsi solo, no? Il valore della rete è molto importante e più importante è il fatto che rimarrà aperta, perché noi realmente vorremmo andare a creare un movimento. Sì, che questo che è successo mercoledì è l'inizio. Noi dopo emetteremo tutta la discussione, il documento in rete e questo rimarrà aperto a altre scuole, altre aziende, altre università e così via. Alfonso Molina, grazie e naturalmente seguiremo da vicino l'evoluzione di questo progetto. Grazie e buon lavoro. Molte grazie a lei, aspettiamo che tanti altri si uniscano a questa grande esperienza. Poteva mancare? No, anche questa puntata, il quiz, pronti? La domanda è la seguente: cosa potrebbero insegnarci i pinguini? Potrebbero insegnarci a costruire una muta subacquea che aumenti la velocità quando si è in immersione e ci scriverete muta. Oppure a estrarre acqua dolce da quella salata del mare e ci scriverete acqua. Infine a costruire delle coperte ultra efficienti per proteggersi dal freddo in alta montagna e ci scriverete coperte. Ci scriverete sempre a questo numero di SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Blue Economy, nuovo rapporto al Club di Roma, 10 anni, 100 innovazioni, 100 milioni di posti di lavoro, di Gunther Pauli, edito dalle Edizioni Ambiente. Di questo libro ne parleremo nella prossima puntata. In collaborazione con IBS.it. L'avete ascoltato nei titoli, abbiamo titolato «I giapponesi sono cattivi e andavano puniti». Questa tesi, che qui vi ho espresso molto sinteticamente, è stata al centro di un intervento radiofonico, di una rubrica, nella quale Roberto De Mattei, sulle onde di Radio Maria, ha sostenuto in vario modo, e qui abbiamo diversi estratti audio che vi presenteremo nei prossimi minuti, ha sostenuto appunto sostanzialmente questa tesi. Chi è Roberto De Mattei? È docente di storia del cristianesimo e della Chiesa all'Università Europea di Roma, ma soprattutto è vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Per commentare questa cosa che in questi giorni, la rubrica è di circa una settimana fa, questi giorni ha indubbiamente suscitato grande stupore, essenzialmente certo nel mondo della scienza, ma direi anche molto di più, in senso molto allargato, per commentare queste cose dette da De Mattei ho qui con me questa sera Stefano Morigi. Buonasera Morigi. Buonasera, buonasera. Filosofo della scienza e la nostra Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, io ho estratto 5-6, adesso vedremo quanti riusciamo a mandarne, registrazioni da questo, da questa rubrica di una decina di minuti che Roberto De Mattei ha tenuto a Radio Maria con appunto un insieme di commenti sul terremoto giapponese. Cominciamo da una prima registrazione, ascoltiamola. La catastrofe è un fenomeno naturale che Dio ha potuto introdurre nel suo piano di creazione per molteplici fini degni della sua sapienza e bontà. Ha potuto farlo per un fine di ordine morale, come per esempio acuire il genio dell'uomo, eccitarlo a studiare la natura per difendersi dalla sua potenza distruggitrice. Abbiamo scelto di iniziare da questo estratto perché mi sembra che sia quello, diciamo, più significativo, no, Barbara, di quelli che possono essere i rapporti tra una carica all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche e una tesi di questo genere. Insomma. Beh sì, è abbastanza stupefacente vedere questa descrizione delle catastrofi come incentivo alla ricerca. Verrebbe anche da dire, se si volesse fare una battuta, insomma, con tutti i modi di incentivare la ricerca, proprio il maremoto poteva mandare, non so, dei fondi ai ricercatori del CNR che da anni lamentano di non riuscire a condurre ricerche adeguate perché mancano i fondi. Passiamo a un altro estratto che ci è sembrato molto significativo e che potremmo intitolare Catastrofi e Nazioni. Infatti, alla colpa del peccato originale che tocca tutta l'umanità, si aggiungono nella nostra vita le nostre colpe personali. Nessuno di noi è immune dal peccato e può dirsi innocente. E le nostre colpe possono essere personali o collettive. Possono essere le colpe di un singolo o quelle di un popolo. Ma mentre Dio premia e castiga i singoli nell'eternità, è sulla terra che premia o castiga le nazioni, perché le nazioni non hanno vita eterna, hanno un orizzonte terreno. Stefano Morigi, qua viene fuori una tesi che a mio parere è assolutamente sconcertante, ed è questa necessità di punire le nazioni perché, a differenza dei singoli, insomma, non muoiono, non possono essere giudicate da Dio dopo, e quindi bisogna punirle qui, ora, sulla terra. Certo, a quanto pare non basta punire gli uomini, bisogna punire anche queste entità astratte, politiche o geografiche, che sono le nazioni, ma la cosa sconcertante veramente è sentire un vicepresidente del CNR che pensa che le catastrofi siano esigenza della giustizia divina, o nella forma più edulcorata, quantomeno, sono intese come un male necessario alla realizzazione di un bene superiore che è custodito in una volontà divina a noi imperscrutabile. A noi, a De Mattei, evidentemente è chiarissimo. Ecco, questo io credo che sia un atteggiamento legittimo, ma sicuramente incompatibile con la carica di un vicepresidente del CNR. È un po' la teoria che Voltaire metteva in bocca al precettore Pangloss, no? Che insegnava che questo è il migliore dei mondi possibili e anche le disgrazie hanno una giustificazione superiore e in quanto tale dobbiamo accettarle. Ricordo però che Pangloss per Voltaire insegnava letteralmente metafisico, teologo, cosmo, scemologia. E non era vicepresidente del CNR. Non so se siete d'accordo, volevo proporvi anche questa riflessione. Qui potrebbe sembrare che le critiche alle tesi di De Mattei arrivino dal mondo scientifico, che spesso, nel quale spesso troviamo posizioni di non credenti e di ateismo, ma in realtà qui secondo me non c'è assolutamente al centro questo tema, uno scontro tra atei e credenti, ma infatti, no, Barbara? Infatti questo io, sì, in realtà quello che soffro in questo discorso secondo me è molto anche il buonsenso, questa idea che le nazioni debbano essere punite, come se le nazioni potessero soffrire e a soffrire non fossero invece gli individui che vivono in quelle nazioni, penso vada contro il senso comune di chiunque, e non è un caso che insomma qui non si è aperto un dibattito fra scienziati e non scienziati. Sono moltissimi a trovare poco sensate questo tipo di affermazioni. Fra l'altro esiste una spiegazione molto semplice purtroppo a quello che è successo in Giappone, cioè il Giappone è un posto estremamente esposto al rischio sismico e al rischio di tsunami. I giapponesi hanno fatto tutto il possibile per minimizzare i danni, infatti hanno preso un terremoto di un'intensità inaudita con tutto sommato un numero di danni limitati. I danni li ha fatti il maremoto, e sul maremoto non potevano fare nulla perché non potevano evitare di abitare sulle coste, visto la densità di popolazione che c'è in Giappone. Sentiamo un altro estratto che abbiamo intitolato Colpevoli e innocenti. Però si dice la catastrofe è cieca, punisce il colpevole ma colpisce anche l'innocente. Come si conciliano con la provvidenza queste stragi dell'innocenza e della virtù che avvengono ad esempio in un terremoto? E la risposta è che Dio non potrebbe fare in modo che un terremoto colpisca il colpevole e rispetti l'innocente, se non attraverso la moltiplicazione di miracoli, attraverso una profonda modifica del piano della creazione divina. E dentro questo estratto ci sono veramente tante cose. Intanto io comincerei a considerare questo dato messo insieme anche a quello che abbiamo ascoltato prima, cioè viene fuori un'immagine di una divinità, di una cattiveria infinita. Non so se concordate. Beh, una divinità veramente spaventosa che fra l'altro non coincide con lo spirito religioso di moltissime persone. Io vorrei anche ricordare che stiamo parlando di scienza, stiamo parlando di fede, che sono due cose che non sono assolutamente in contraddizione. Moltissimi scienziati sono credenti, appartengono a tutte le religioni, e quello che li accomuna è la convinzione di poter studiare la natura, e questo non è in contraddizione con la fede. Però Stefano Morigi, mi pare anche che ci sia una contraddizione logica molto forte, di logica classica. Certo, pone una contraddizione logica e teologica insieme, che appartiene alla storia delle idee e che nella formulazione di De Mattei si, come dire, arrotola in una contraddizione, come tu dicevi, imbarazzante. Dio che condanna il colpevole e l'innocente e comunque deve rimanere sommamente buono. Insomma, io non voglio neanche addentrarmi troppo in dibattiti teologici, una trasmissione di scienza, e di scienza dobbiamo continuare a parlare, se non altro non perdendo, come dire, il filo del buon senso. Da un vicepresidente del CNR noi vorremmo che di fronte a catastrofi, di fronte a tragedie, di fronte anche alle morti, si mantenesse la sobrietà di un linguaggio scientifico che tenti di approcciarsi alla natura con il linguaggio, il metodo, i dati e le evidenze che la scienza mette a disposizione. Nella sua vita privata penserà libero di pensare, di credere quello che vuole, ma quando fa il presidente di CNR faccia il suo mestiere, altrimenti si dimetta. Vorrei anche ricordare che il CNR conduce moltissime ricerche volte a studiare gli eventi che portano alle catastrofi e a minimizzarli. Penso anche alla cosiddetta Casa Sofia, che è una cosa molto interessante di cui abbiamo già parlato qui a Möbius, che è un progetto di casa antisismica che il CNR testò poi proprio in Giappone. Sì. Allora, se le catastrofi sono una sorta di giudizio di Dio, mi viene da chiedermi anche: ha senso per il vicepresidente del CNR fare questo tipo di ricerche, e fino a che punto? Non sono ricerche volte in qualche modo a difendersi da un volere divino e quindi illegittime? E ci si può domandare che senso ha fare ricerca nel momento in cui si è come all'interno di un Truman Show, in cui qualcuno da fuori ha completamente definito il gioco. Abbiamo un ultimo estratto, il terremoto purificatore. Ma c'è un terzo punto. Le grandi catastrofi non sono solo spesso atti di giustizia di Dio, ma sono altrettanto spesso una benevola manifestazione della misericordia di Dio. Abbiamo detto infatti che nessuno, mettendosi la mano sulla coscienza, potrebbe dare a se stesso un certificato di innocenza. Nessuno può dire io sono innocente, e non lo può dire né per il peccato originale che lo macchia, né per i propri peccati personali. E un giorno, quando sarà sollevato il velo che copre l'opera della provvidenza e alla luce di Dio vedremo quello che egli avrà operato nei popoli e nelle anime, ci accorgeremo che per molte di quelle vittime che oggi compiangiamo, il terremoto è stato un battesimo di sofferenza che ha purificato la loro anima da tutte le macchie, anche le più lievi. E grazie a questa morte tragica la loro anima è volata al cielo prima del tempo, perché Dio ha voluto risparmiarle un triste avvenire. Forse a questo punto c'è veramente pochissimo da aggiungere, Barbara. Beh sì, anche perché insomma, pensando ai volti e alle storie delle persone che sono state coinvolte in questo terremoto, l'idea che sia avvenuto per il loro bene, per la loro purificazione, è una cosa che proprio contraddice ogni spirito di umanità, secondo me. Resta il fatto che lo scopo della scienza, in generale del progresso, è quello di migliorare le condizioni dell'umanità. Ora, se le disgrazie, i terremoti, le guerre, le malattie sono un'espressione della volontà purificatrice di Dio, io non capisco perché l'umanità dovrebbe essere legittimata a cercare di difendersene. Mi viene in mente una riflessione. Mi chiedevo tra me e me come mai De Mattei solo adesso ha tirato fuori queste sue riflessioni sul terremoto come battesimo di purificazione e non le abbia tirate fuori nei giorni in cui l'Aquila è stata devastata dal terremoto. Forse perché l'Aquila è più vicina del Giappone? Grazie Stefano Morigi, grazie Barbara Galamotti. Grazie, buonasera. Grazie. Cosa chiedeva la domanda del quiz di oggi? Era la seguente: cosa potrebbero insegnarci i pinguini? Niente mute subacquee e niente coperte per il freddo. I pinguini bevono acqua salata. È così che si dissetano. In effetti, visti i territori in cui vivono, dove la potrebbero trovare? L'acqua dolce. Ed è così quindi che hanno sviluppato un sistema di filtraggio sostanzialmente analogo a quello dei nostri reni, che elimina il sale dall'acqua marina. La desalinizzazione si fa con apparecchiature che comunque richiedono energia elettrica o combustibile per funzionare. Se si trovasse una soluzione ispirata ai pinguini, si avrebbe uno strumento tremendamente più agile da trasportare e usare. Mentre ora, nostro ospite a Möbius è Antonio Guerci. Buonasera Guerci. Buonasera. Docente di antropologia all'Università di Genova e anche responsabile scientifico del Museo di Etnomedicina, che si trova sempre a Genova. Allora, Antonio Guerci qualche tempo fa si trovava in Africa in un ambulatorio. C'era una coda di persone e che cosa è successo? È successo che tra queste persone, quando è giunto il suo turno di presentarsi davanti al terapeuta, disse mi hanno rubato una gallina. Come malattia? Esattamente. Questo ovviamente apre uno squarcio enorme su quelle che sono le medicine tradizionali. Infatti questo paziente, tra virgolette, andava dal terapeuta in quanto sperava che il terapeuta stesso guarisse la società all'interno della quale c'era un ladro. Mentre da noi nella medicina scientifica curiamo l'organo, addirittura curiamo la cellula, per molti miliardi di persone e anche non solo distanti nello spazio ma anche nel tempo, la prima indagine veniva fatta a livello sociale, in quanto si riteneva e si ritiene ancora tuttora che sia la società patogena, cioè è dal gruppo, dal clan, dalla tribù che nasce la malattia o il malessere. Lei diceva giustamente poco fa, noi adesso oggi arriviamo a curare la cellula, lì addirittura c'era la pretesa che la medicina curasse il ladrocinio di galline. Sì. Però è anche vero che col passare dei secoli e dei millenni anche il nostro lato, la nostra medicina, comincia a interessarsi sempre di più di condizioni più generali, al contorno del malato. Assolutamente sì. In effetti si cerca di considerare l'individuo malato o che presenta un malessere non solo come essere, ma come esistente, cioè di un individuo che si trova in un determinato ambiente, che sia ambiente biotico, abiotico, ma soprattutto in un determinato ambiente sociale. Parlando insieme a lei nella preparazione della trasmissione, ricordavamo per esempio come gli ospedali, anche quelli appunto costruiti dagli occidentali, delle organizzazioni non governative in Africa, devono tenere assolutamente presente il fatto che si porta intorno numerosi esponenti della sua famiglia, quindi la stanza in cui c'è il malato deve avere tipicamente un esterno nel quale possono sostare anche per diversi giorni i componenti della sua famiglia, no? Sì, assolutamente. Ho visto io stesso una ventina di anni fa in Togo, proprio nella capitale Lomé, una situazione del genere, un ospedale all'epoca moderno dove i pazienti che entravano potevano optare o per le cure biomediche, ovvero della medicina occidentale, oppure per le cure tradizionali. E in questo secondo reparto, chiamiamolo così, ho visto che per un bambino, ricordo bene, un bambino malato, attorno vi erano una sessantina di persone. Questo appunto sottintende la estrema socializzazione della malattia e partecipazione, quasi che ognuno di questi componenti supportasse il malato come poteva. L'etnomedicina sarà al centro di un incontro organizzato dalla Fondazione Sigma Tau a Roma lunedì prossimo, il 28, alle ore 11, all'Auditorium Parco della Musica. Insieme a lei ci sarà Tony Capuozzo, che è un inviato da diversi teatri complessi internazionali, tipicamente di guerra o di anche grandi problemi, grandi tragedie naturali un po' in tutto il mondo. Questa combinata appunto anche con gente, con un personaggio che si interessa di questioni internazionali, immagino che rimandi al fatto che al di là dei casi estremi come abbiamo visto adesso, però c'è bisogno di una grande attenzione quando si entra in contatto con popolazioni molto diverse nel capire qual è il loro approccio alla cura. Certamente, differenti popolazioni significa differenti culture. Differenti culture comporta differenti rappresentazioni del corpo e della malattia e della salute. Cioè, io insisto spesso sul fatto che il concetto di salute non è universale. Ogni cultura ha la sua rappresentazione della malattia e anche della salute, ma mi piace inoltre aggiungere che l'etnomedicina non è solo rappresentata, costituita da situazioni diciamo così abnormi dal nostro punto di vista. Mi piace sottolineare come molti dei principi attivi che oggi troviamo anche nei farmaci moderni occidentali sono stati ripresi, per non dire anche copiati, da farmaci, tra virgolette, di popolazioni a noi molto molto distanti. Vi sono delle piante ancora già citate, siamo nella metà del secondo millennio avanti Cristo, nei testi ayurvedici della medicina indiana, e che ritroviamo ancora oggi utilizzati, ma non solo in India. Questo utilizzo si è espanso a est, a ovest e ha quasi coperto quasi tutto il mondo. Ricordo ancora allora l'appuntamento lunedì 28 a Roma alle ore 11 all'Auditorium Parco della Musica per discutere di questo grande, vastissimo territorio che è l'etnomedicina. Antonio Guerci, grazie e buon lavoro. Grazie anche a lei, buonasera. Credo proprio che tutti voi vi ricordiate perfettamente come una quindicina di giorni fa occupò i telegiornali della sera praticamente tutti e arrivò questa notizia accompagnata da una foto di un organismo vivente arrivato dallo spazio. Beh, non certo una cosa grande come Godzilla, però la foto ci faceva vedere una specie di bruco incasellato dentro un pezzo di roccia, e la foto ci mostrava anche in questo bruco una certa trasparenza, come effettivamente avviene per alcuni insetti, immagini di insetti che sono appunto gli organismi molto fragili e a volte si vedono degli organi interni, e questo veniva presentato come un segno inequivocabile di vita arrivata dallo spazio. Allora io saluto il nostro ospite, John Robert Brucato. Buonasera Brucato. Buonasera. Astrofisico di Arcetri, anche astrobiologo, perché c'è una scienza molto precisa e rigorosa che si interessa di ciò che significa la vita nell'universo. Allora Brucato, insomma, com'è che è nata questa cosa? Perché mi pare del tutto evidente che oggi, a 15 giorni di distanza, il problema non sia più di tipo scientifico ma un po' di sociologia della scienza, perché le basi di questa vicenda dal punto di vista scientifico sono di totale fragilità. Sì, ancora una volta diciamo questo risultato si riallaccia un po' a quello che fu un risultato analogo che venne pubblicato ormai quasi una decina di anni fa per quanto riguarda il batterio che venne ritrovato in un meteorite di tipo marziano. Anche lì ci fu parecchio clamore da parte della NASA, perché appunto in quel caso la scoperta venne fatta da un ricercatore americano, e poi alla fine ci fu una disattenzione verso questo tipo di risultato, perché venne dimostrato che il batterio appunto aveva un'origine minerale, quindi non biologica. Oggi in questo nuovo caso, se vogliamo, si ripresenta un po' un tema analogo. Abbiamo ancora una volta un ricercatore che cerca in qualche modo di trovare dei segni, delle indicazioni che la vita, così come appunto la conosciamo sulla Terra, possa esistere da qualche altra parte nel nostro sistema solare, e per fare questo ha analizzato una serie di meteoriti caduti sulla Terra parecchi anni fa, e in questi meteoriti appunto ha rinvenuto queste forme che sono, secondo l'autore, associabili a dei batteri di origine extraterrestre. In questo caso chiaramente la differenza dal caso precedente del meteorite marziano è notevole, perché nel caso del meteorite marziano stavamo parlando di un frammento di un pianeta come appunto Marte, che è giunto sulla nostra superficie terrestre, sulla Terra, e quindi è stato analizzato, quindi un luogo nel quale un complesso di processi geologici e fisici e chimici possono avvenire. In quest'altro caso invece stiamo parlando di frammenti di meteoriti, cioè oggetti che che appartengono alla classe degli asteroidi, quindi oggetti molto piccoli, non paragonabili quindi ad un pianeta, nel quale diciamo delle condizioni che sono tipiche per poter far sorgere la vita non possono, almeno secondo le nostre conoscenze, poter avvenire. Quindi l'attribuzione di questo microorganismo al regno vivente assume degli aspetti controversi proprio per il fatto che, tra l'altro, ci sono delle evidenze che possono in qualche modo mostrare che forme simili possono anche essere ottenute da processi abiotici, cioè di tipo minerale. Quindi, cioè, dei frammenti geologici possono assomigliare a un bruco spaziale, per dire rapidamente. Qui c'è una rivista, cos'è? Journal of Cosmology. Sì, che ha pubblicato la cosa, una rivista di ricerca, ma come mai? Che tipo di controllo è stato effettuato? Nullo. Diciamo che di solito appunto le riviste scientifiche sono molto selettive al momento in cui si vuole pubblicare un risultato scientifico, proprio perché vengono consegnati i lavori che si vuole pubblicare sulla rivista ad un team di arbitri cosiddetti, certo, che giudicano il lavoro, la qualità, la bontà del lavoro. In questo caso l'editore della rivista sostiene che addirittura 100 arbitri sono stati interpellati, ma sembrerebbe successivamente alla pubblicazione, non prima. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.